Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Però il vero nemico è il diavolo, il quale sta sperando un attacco, detto la Madonna, sta sperando un attacco contro la famiglia per distruggerla, e dice: vedete come Satana vuole trarvi nel peccato e nella schiavitù. Io non discuto che Bagnasco intervenga, sarei aspettato un evangelico sia il vostro votare, sì sì, no no, il resto è del demonio, e sicuramente è del demonio il voto segreto. Spero che i cattodem abbiano il coraggio per votare no alla stepchild adoption e che numerosi grillini votino no, in modo tale che salti. Se io dovessi fare il mestiere del segretario... Il regolamento del Parlamento, che non ho fatto io, non ha fatto lei, non ha fatto la CEI, non ha fatto Marco, non ha fatto Francesca, prevede il voto segreto in alcuni casi. Se ci saranno le condizioni, il Presidente del Senato, non il Presidente della CEI, deciderà se dare il voto segreto o no. Non c'era l'intenzione di scendere in campo con un intervento tale da esporre la Chiesa italiana all'accusa di ingerenza. Sta a vedere che sulla Chiesa non può parlare, ma no, sono cose che stanno nascendo in terra. Vedi che il diavolo comincia a insinuarsi? Lo dice Livio Fanzaga. Sta a vedere che ha ragione. E Benedetto della Vedova, anche lui parla di... insomma, è demoniaco il voto segreto. Vedete che poco alla volta ce la facciamo. Poco alla volta. Goccia dopo goccia. Stai a vedere che alla fine è il diavolo che ci mette lo zampino. Tutti i giornali, che sono veramente una cosa incredibile, cioè tutte le televisioni, tutti i giornali sono schierati dalla parte del diavolo. Diciamo pure così, dalla parte del diavolo. È ormai il padrone della stampa, eh. E non si riferisce all'unico diavolo che conta, il diavolo rossonero. Buono per... Stiamo arrivando, caro Mauro Meazza, stiamo arrivando, stiamo arrivando. Che si allunga in ritardo e arriva il gol del 2-0 da 35 metri, la mette il giapponese. Zarate, parte il tiro, Andanovic, Urca, posta volta in rete, Babacar, Fiorentina in vantaggio. C'è mia moglie che nella confusione del 92esimo, mentre leggeva un libro e io ridevo, ha detto: ma che c'entra BlaBlaCar adesso in una radio? No, non è BlaBlaCar quella app, è Babacar. Rossoneri guerrieri. Allora, saluto subito sulle note dell'inno della squadra più bella del mondo, cioè il Milan, la capolista. Federico Novella, come stai? Buongiorno, buongiorno. BlaBlaCar, ragazzi. Hai fatto bene a sottolinearlo. Ragazzi, darò un commento tecnico. Che culo, ragazzi. Come dire, la capacità di sfruttare le occasioni, no? Mi definì già capolista, come dire, con lungimiranza, e oggi parliamo da capolista. Bravi anche voi. Secondo me il solito urticante onorevole Maurizio Bianconi, che avevo detto avrei chiamato per parlare anche un po' di calcio. Eccolo qua, buongiorno onorevole Bianconi. Buongiorno Milan, buongiorno. Il commento tecnico com'è? Che dice sulla Juve? Sulla Napoli-Juve, le squadre grandi un po' di culo non guarda. Un po' di culo non guarda. Beh, questo nella vita in generale. Nella vita in generale. Nella vita quando in generale. La squadra è solida, senza, come dice Allegri, un pizzico di fortuna, non si va da nessuna parte. Sì. Si dice sempre così quando si vince di culo. È stata una partita nella quale è venuto fuori la genialità dei due allenatori. Sì. È stata una bella lezione di calcio. Comunque, il mio sabato è finito lì, quel pomeriggio. Non so se è successo altro sabato sera. È finito Sanremo. Ruggeri non ha vinto, però insomma. Ma Bianconi a che squadra tiene, a parte l'Arezzo? Ovviamente. Nessuna. Io tengo per l'Arezzo. Mi piace il buon calcio. Devo dire che la Juventus di quest'anno gioca un ottimo calcio e il Napoli di quest'anno gioca un ottimo calcio. Quindi per anni che nel campionato italiano non si vedeva giocare un buon calcio così. Ti farà per la nazionale, essendo del partito della nazione. Non me ne frega niente. Vabbè, allora Bianconi, le mettiamo l'inno dell'Arezzo, conferma? È questo? Sì, se è quello lì lo feci fare io a Pupo, se è quello lì. Lo fece fare perché Bianconi è stato vicepresidente dell'Arezzo. Attenzione. E questa di Pupo, è questo? Sì, è questa. Ce l'ha fatto fare lei a Pupo? Sì. È live. Senti, Federico. Guarda, mi sto dimenando in tangenziale. Cioè l'ha fatto fare a Pupo. A Pupo, sì, perché Pupo è da Arezzo, no? Che siamo amici. Hai capito. Fantastico. Arezzo, squadra potente. Arezzo, squadrone potente. Arezzo nel cuore della gente. Arezzo squadrone potente, Arezzo nel cuore della gente. Ma perché non c'era Sanremo? Perché? Mamma mia. Vabbè. L'inno dell'Arezzo. Vabbè, qui dobbiamo aprire il Parlamento un attimo perché oh, che noia ragazzi, questa storia delle unioni civili, veramente adesso mi stanno uscendo dagli occhi, lo dico. Che poi tutti dicono domani si vota, non è vero, cioè da domani si inizia, state tranquilli, forse finisce il 23. Oh Bianconi, meno male che lei sta alla Camera, perché al Senato sì, che... no, noi abbiamo ora il conflitto di interessi in prima commissione. Giusto. Sì, una cosa che adesso che Berlusconi non c'è più, praticamente. Non... Cioè, hanno fatto la norma che dovevano fare 20 anni fa, la fanno adesso. È la Camera. la Camera è praticamente molto in sintonia con i tempi, no? Il tempismo, prima di tutto. Sì. Ma perché Bianconi, non ho capito, l'hanno studiata bene, l'hanno elaborata bene per 20 anni prima di. Sì, no, ma purtroppo dice uno studio che gli elettori dimenticano le cose dopo 6 mesi. Sì. Cioè, prima di 6 mesi di elezione puoi fare che cazzo vuoi perché la gente non se ne ricorda. Contano gli ultimi 6 mesi. Sì. E quindi sono dei decerebrati. Sì, esatto. Mi faccia capire, cari italiani che andate a votare, siete dei rimbambiti. Ecco. No. Questo dicono gli studi. Gli studi. Rimasta, e quindi si comportano di conseguenza. Parlano del conflitto di interessi. Gli ultimi 6 mesi prima delle elezioni, poi hanno convissuto col conflitto di interessi perché, come si dice dalle mie parti, fede risalca, tutti una barca, cioè sono tutti insieme. Mi sono perso il detto, com'è che è il detto? Fede risalca, io le avevo mosso come lei sa purtroppo. Ma che vuol dire fede risalca, tutti una barca? Fede risalca, tutti una barca, sì, vuol dire che stanno tutti nella stessa arca di Noè, stanno tutti in una stessa barca, fede e risarca, tutti una barca. Ah, tua fede e risarca, tutti una barca, e va bene, abbiamo imparato. Quindi, ma voglio dire, no, ma non ho capito, cioè, se si parla, se siamo una massa di decerebrati, tipo io e Federico Novella che andiamo a votare, cioè, bisognerebbe parlarne subito dopo le elezioni, perché prima, sei mesi... Ma siccome il PDS, PD, eccetera, aveva interesse a tenere vivo lo spettro Berlusconi, l'antiberlusconismo ha funzionato per molto, e dare il conflitto di interesse, se ne parla adesso, e togliere lo spauraccio davanti era scomodo, tant'è vero che D'Alema, che avrebbe potuto farlo, non lo fece. Prodi non lo fece, non l'ha fatto mai nessuno. Quindi invece adesso se ne parla, come dire, vedete che lo facciamo, poi tra sei mesi. Esatto. E come a Berlusconi faceva comodo lo spettro dei comunisti. Si sono presi per il culo gli italiani per 20 anni, non l'altro. Federico, capito. Tu è che una fai missione di colpevolezza. Tu che fai una trasmissione quotidiana e queste cose non le dici. Cari italiani, vi hanno preso per il culo per 20 anni. Ma non glielo dico, perché tanto poi se lo dimenticano. Quindi dimenticano. È inutile dirglielo. È inutile. Ogni due mesi dovresti ricordarlo. Vi ricordate cosa vi ho detto 2 mesi fa? Vi stanno prendendo per il culo da 20 anni. Segnatevelo prima che... Ma io dovrei dirlo ad ogni segnale orario, ecco, esatto. Sono le ore 10, mi stanno prendendo per il culo, è così, esatto. La verità è questa. Vuole un altro esempio, Milano? Sì. Le riforme e l'Italicum, le riforme terrestriane e l'Italicum sono legge perché il voto determinante, il sostegno determinante gliel'ha dato Forza Italia. Sì. Senza i voti di Forza Italia non ce l'avrebbe mai fatta, no? Ebbene, certo. Oggi Berlusconi grida contro le riforme, contro l'Italico, e nessuno lo manda a fanculo, il che vuol dire che si può fare ciò che si vuole. Ecco, no, vabbè, ma quella è la politica, cioè è successo un po' di cose. Dice, no, la politica dice sì, no. Ma lei sa bene che in politica non c'è il sì va bene per il quarto d'ora, com'era la mitica frase, non so, credo di Rotondi, il mio parere vale per il momento in cui lo sto dicendo, dopo un quarto d'ora posso cambiare idea, no? Dai. Rotondi è un artista del galleggiamento, vabbè, ho capito, però questo è il concetto. Cioè, non so, non è che la coerenza in politica sia una dote molto diffusa. Ma perché? Perché c'è la famosa regola dei 6 mesi. È la famosa regola dei 6 mesi. È il teorema di Pitagora della politica. Detta, capisco, anche la famosa regola del segnale orario di Federico Novella. Da oggi. Comunque, allora, anche Renzi è contrario all'utero in affitto. Che brutta espressione. Però, insomma, l'utero in affitto. Senti qua, Renzi. Io sono molto contrario, lo dico con tutto il rispetto naturalmente per chi non la pensa come me, capisco che sono temi delicati, ma a mio giudizio si deve fare di più per mettere al bando non soltanto in Italia, cosa che già accade, ma anche in altri paesi il principio dell'utero in affitto. Anche questa cosa però... Io dico solo questo. Notizia oggi su Repubblica, due una coppia sono andati in Ucraina, lui della coppia è comunque il padre biologico, ma hanno utilizzato un'altra donna, un utero in affitto, sono tornati con 2 bambini e il giudice ha stabilito che la madre italiana, che non è la madre vera, cioè la donna che ha portato i 2 bambini, è la madre sociale. E quindi gliele ha lasciati. Quindi c'è già questa pratica, nel senso, anche legittimata come al solito dai magistrati, anche se non ci sono le leggi. Allora, Federico, sono contento, sempre detto, di vivere in un paese in cui questa pratica è vietata. Però non è che possiamo andare a stabilire le leggi in Ucraina, per esempio, no? La verità è che questo dibattito sulle unioni civili ci sta un po' uscendo dalle orecchie, cioè nel senso che non ne possiamo davvero più, e la verità è che io temo, poi in linea generale, vedo che il vento sta tirando già a favore di queste nuove famiglie, tant'è vero che mi sembra di capire che ormai si fa scandalo quando si dice che la famiglia tradizionale è composta da madre e padre, sì. Cioè se tu lo dici generi scandalo, sì, una volta dice, era esattamente il contrario. Esatto, dice no, volta, non è più così. Ci una volta era esattamente il contrario. E io capisco dove tira il vento da questo, dal politicamente corretto. Il politicamente corretto oggi è mettersi il braccialetto arcobaleno, che è un'opinione legittima e moderna, e combatterla per la famiglia tradizionale è diventato un gesto di ribellione. Sì, poi sì, per sì, il resto fate le vostre riflessioni. Un po' sì. Poi sulla questione dell'utile in affitto, tanto questa legge non lo prevede, non ne parla, non lo prevede, però secondo alcuni lo potrebbe incoraggiare. Potrebbe incoraggiare a dire all'ufficio a spiegare. Ho capito, che peraltro è fatta anche dalle coppie eterosessuali. Sì, ma certo, ma vediamo il caso concreto di raccontato oggi da Repubblica. Nei fatti già c'è, certo, sì, è un po' più complicato. Lo vuoi formalizzare. Vabbè, però devo chiedere a Bianconi una cosa, ma dopo il traffico, perché Bianconi pare che Renzi, da lei definito, si sa sempre. Grande cazzaro, sì. Ha diventato grande cazzaro. Ma ad Arezzo non si può dire questo. Prima era solo il cazzaro, adesso è grande cazzaro. Come grande capo, ve lo ricordate nel film? È stato promosso. Grande cazzaro, è stato promosso. Però Renzi pare che abbia detto una roba ad Alfano. Ah, dura. Dopo le devo chiedere un parere. Lo scrive oggi il giornale. Tra un attimo, state lì. Con Alino Milan e il Fiorentino. Il traffico di vino. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta. Bertolaso è ufficiale, uno che è stato coinvolto nello scandalo della Maddalena, nello scandalo della ricostruzione dell'Aquila. Che dire per una città come Roma, un candidato sindaco esperto. Signor Milan, vi volevo rivolgere una piccola intervista. Che ne pensate dei cani che vanno cagando e zuzzano tutte quante le città d'Italia? Che cosa ne pensate voi, signor Milan? La colpa è del padrone, ossaccio, ma è anche colpa delle autorità che dovrebbero controllare la situazione. Intanto ricordatevi il referendum sull'acqua, che anche quello si voleva che andasse fallito, invece la gente è andata porta a porta a chiamare le persone per andare a votare. Poi per quanto riguarda il costo, non è un costo di soldi buttati, bene o male vanno a gente che non avendo un lavoro in quei giorni fa lo scrutatore e si guadagna onestamente quei 120-130 euro, insomma, non sono soldi buttati. Dottor Milan, i nostri senatori hanno preso tutti il 6 politico e qualcuno l'ha pure comperato. Step child adoption. Che rischia adoption, scusate. La cosiddetta step child adoption. E vabbè, caro Federico, ecco. Sì, l'association. Vediamo, facciamo un esame se anche alla Camera. Bianconi, provi lei, esattamente come si dice. Io glielo posso anche dire, ma è una pratica che detesto proprio. Da veri provinciali, sì. Job Act, Step Child Adoption, tutte. Ma l'ha detto bene. Poi la domanda vera è. Insomma, sono tutti troiai, perché bisognerebbe usare. Troiai, bisognerebbe usare la lingua italiana, che è una buona lingua. Sì. Cioè, se non lo sanno dire i senatori. Che sono 300 su 60 milioni di persone, tutti quegli altri, ma sapranno di molto cos'è questa cosa. Questo, no, cioè, no, credo non di no. Capire, credo. Comunque dopo sei mesi ce lo dimentica. Sì, esatto, tanto dopo sei mesi ce lo dimentichiamo. Mi chiedevo, ma a Sanremo gli stepchild adoption hanno suonato? Non lo so. comunque, caro Bianconi, ecco, adesso ci deve far capire. Pare che Renzi sia stanco di questo ondivago Alfano, che va a dire una cosa, poi un'altra. Ancora ieri dall'Annunziata ha detto togliete la stepchild adoption per la. Punto. E allora pare che Renzi gli abbia detto così, testuale, sul giornale. Sai cosa ti dico, Angelino? Forse è meglio che te ne torni ad Arcore. Che paroloni. sono, cioè, il giornale è per definizione inattendibile. No, vabbè, era, ma no, è come, ma perché, dai, ma no. Era come l'unità al tempo del PD. Ma no, ma dai, ma salutiamo. Il giornale è la Pravda di Ascoli, però, però l'unità è la Pravda di Palazzo Chigi, però allora. No, ma finisco il ragionamento. È logico che si tenda a creare una divisione tra Matteo Cazzaro e l'Angelino presidente del NCD, non ci dimettiamo. Non ci dimettiamo. Ma perché non l'hanno portato a Sanremo? Altro che Brignano, ragazzi. Esatto, ma Maurizio, esatto. Bianconi. Ma, vabbè, non ci dimettiamo. Vabbè. Poi, però... La vita di Alfano è legata ai ministeri. Lei pensi che ha un partito che a stento viene testato, quando si dà il 2,8% sì, si dà 0, perché l'oscillazione è da 0 a 3, quindi hai 3 ministeri, 2,8 non hai un cazzo. Sanità, interno, vicepresidente e affari regionali. E c'aveva pure Lupi alle infrastrutture e trasporti. Poi c'aveva Lupi alle infrastrutture, cioè, voglio dire, è un partito che ha più ministeri che elettori, però sta bene lì e fa la sua parte. Renzi fa molto comodo, perché è praticamente un generale senza esercito, sì, che se gli cavi gradi non conta più niente, quindi lo fa berciare un pochino, ma se lo tiene ben caro. Lo fa berciare. Quando ha dovuto scegliere. Senti un po' non me la... Berciare. Lo fa berciare. Diglielo anche tu. Invita Alfano e dici, senta, berci pure. Berci quanto ti pare, ma tanto non rompi i coglioni. Stai qui perché non sei guardato da tavolo. Cioè, però, capito l'analisi politica. L'analisi è molto chiara. La vuole la prova, Milan. Sì. Quando ha dovuto scegliere se beneficiare Verdini o Alfano, sì, ha beneficiato Alfano con i ministeri. A Verdini gli ha dato 3 misere vicepresidenze di commissione e a casa. Ti vedo che gli giro un po' i coglioni adesso. È un genio. Tu, Federico, di che parli, tra l'altro? Oggi ancora Stepchild Adoption, ancora di qui, di la Stepchild Association. No. Oggi no, torniamo a parlare di coloro che si difendono da soli contro i ladri, che è un fenomeno che si ripresenta spesso. La legittima difesa. Che divide molto, un tema che divide molto gli italiani. Presidente, lei Bianconi ce l'ha un fucile lì in Toscana? No, non c'ho, c'ho una pistola, una beretta, ma non sono capace a usarla. Ad acqua. No, non c'ho un fucile, ma c'ho una beretta. Vabbè. C'è una beretta da 40 anni, penso. Quando si fa il militare, se l'è portata via. Se l'è portata via. Esatto. No, come praticamente? No, non si danno, può. Non è che la porti via. Ma la compri, te la danno. Ah, se la compri, te la danno. Cioè, lei ha fatto il militare, poi l'ha comprata. Sì. Non so buono a duplare. E se entra un ladro a casa sua? Io non la userei la pistola, perché so che farei più danno che altro, però capisco chi la sa usare. Capisce, hai capito, Federico? Ma sai, se entra un ladro in casa di un politico, è un pareggio, in sostanza. Quando entro, vedi, il problema, se posso dilungarmi 10 secondi. 10 però, non è che devo entra, entra un ladro, ti ruba e va via. Il problema è che quando entrano in casa, la storia dice che ti possono uccidere, certo, possono violentarti la moglie, ti possono legare, ti possono picchiare. Non puoi sapere prima le cose, la tua incolumità. È chiaro. No, su questo è così. No, si fermi qui, perché altrimenti sforo. Tanto sa che per parlare di calcio e altre cose la chiameremo ancora. Allora, grazie all'onorevole Maurizio Bianconi, voglio ricordare, conservatori e riformisti, il suo gruppo, e Federico Novella alle 9 mattino 5. Chiudiamo sempre con l'inno di Arezzo, fatto fare di Bianconi a Pupo. Arezzo nel cuore della gente, in coro con noi canterà la spregevole pratica dell'utero in locazione. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan, che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Amici, settimana numero 146, decisiva ovviamente per l'abolizione delle province, che è cominciata. È cominciata, e allora siamo pronti ovviamente a leggere i giornali. Forse è la settimana decisiva anche per le unioni civili, non se ne può più, ma credo di no, perché tutti dicono si vota domani, si vota da domani, manca quel da domani. Forse si arriva al 23, forse no, forse, chissà, forse. Intanto andiamo a leggere i giornali. E allora è lunedì 15 febbraio, i titoli, il Sole 24 Ore apre su giovani, maternità e prestiti, le casse accelerano sul welfare, nel budget 2016 spazio alle tutele per i professionisti. E mentre c'è una serie di aperture dedicate all'attualità internazionale, il Corriere della Sera, le chat di Regeni con la fidanzata svelano i depistaggi, dunque il mistero della morte, dell'uccisione del ricercatore italiano in Egitto. Anche per Repubblica, Egitto, Giulio tradito dai dossier finiti nelle mani degli 007, Regeni preso di mira per i suoi report universitari. E Gentiloni, cioè il ministro degli esteri, dice pretendiamo la verità in tempi brevi. La Stampa invece si sposta sul fronte guerra. Damasco, le truppe turche ci invadono. Questa la denuncia della Siria. Intanto Obama chiama Putin, stop alle bombe sui ribelli. Il Messaggero, per venire alle cose italiane, spesa pubblica, il piano tagli, dopo le incognite su PIL e ripresa, il Tesoro intenzionato a riaprire i dossier sulla spending. Beh, insomma, sarebbe ora, dopo che se ne parla da decenni. Il Giornale invece è sicuro, e questo non è un titolo che, se uno lo legge, mette di buon umore. Ci aspettano altre tasse, questo è il titolo. Libero invece, inchiesta, investe i vertici dell'INPS, evasione da 40 milioni, la procura di Nocera ha aperto un fascicolo con molti indagati e un filone che punta direttamente al direttore generale dell'INPS. Mentre l'Unità apre sulla sfida e nelle città, è un focus su tutte le amministrative, si vota in 1.343 comuni, si comincia insomma a guardare a lì. Il Fatto Quotidiano, la strategia della pensione, il governo medita di tagliarle per coprire il fondo sulla povertà. Staremo a vedere. Intanto che cosa medita il governo sul canone della RAI? Non lo sappiamo ancora, non lo sappiamo, perché come scrivono Saverio Fossati e Valentina Melis oggi sul Sole 24 Ore, pagina 9, il canone RAI, beh, dovevano esserci tutti i dettagli in un decreto che doveva essere pubblico oggi, entro oggi, il 15. In realtà il provvedimento che è atteso per il 15 febbraio, così disponeva la legge di stabilità, che dava al governo 45 giorni di tempo a partire dal 1 gennaio per sciogliere i nodi operativi del nuovo sistema di come si paga il canone, non è arrivato. E allora... Però si può sapere qualcosa. Per esempio, sarà la residenza in un immobile il criterio guida per stabilire chi dovrà avere il canone della RAI addebitato nella bolletta elettrica e chi no. Per un utente che attiva una fornitura di energia a novembre o dicembre, il pagamento del canone scatterà da gennaio. Sono questi alcuni chiarimenti che arrivano dal Ministero dello Sviluppo Economico, dove si lavora alla scrittura del decreto attuativo sulle nuove regole del canone della RAI. Il Ministero intanto ribadisce che il canone sarà addebitato solo ed esclusivamente sulle utenze residenziali, cioè solo sulle prime case. E poi il contribuente con più di un'utenza elettrica intestata a sé dovrebbe pagare solo per l'abitazione nella quale è residente. Ecco, quel dovrebbe condizionale non fuga tutti i dubbi, però è chiaro che insomma oggi sul Sole 24 Ore ci sono un po' di chiarimenti, anche se il decreto attuativo ancora manca. C'è da dire che invece ci sono alcuni articoli che riguardano la ricerca italiana, i pochi finanziamenti che la ricerca italiana ottiene e anche una polemica che ha investito alcuni ricercatori che sono stati premiati in Europa, polemica ingaggiata con il ministro all'istruzione Giannini. perché dopo che c'è stata la vittoria, la premiazione, dopo che c'è stato un bando del European Research Council che ha detto che 13 ricercatori italiani hanno vinto, beh, il ministro Giannini, ministro dell'istruzione, ha esultato dicendo: vedete la ricerca italiana. Ed ecco che alcuni di questi ricercatori, una in particolare, Roberta D'Alessandro, che fa la linguista e vive in Olanda, ha risposto per le rime a Stefania Giannini dicendo: non c'è nulla di cui vantarsi e non si vanti dei miei successi, perché in realtà, e questa Roberta D'Alessandro viene intervistata da Repubblica, pagina 22, caro ministro, l'Italia non mi ha voluto, mi dicevano brava, poi vincevano altri. E dunque non è un premio per la ricerca italiana, ma per la ricerca fatta da italiani. È molto diverso. La differenza, dice questa ricercatrice, è che noi siamo di nazionalità italiana, ma molti di noi i fondi che l'Europa ci assegna per fare la ricerca non li spendiamo in Italia. Il mio progetto è sul contatto linguistico tra le lingue degli emigrati italiani in America nel dopoguerra e le lingue romanze nel Sud America e Nord America. Un progetto che riguarda lingue come il veneto, il napoletano, il siciliano. Però dice: io sono in Olanda perché per un ricercatore è normale viaggiare. Il problema poi nel mio caso è che non sono riuscita a rientrare. Mi sono laureata all'Aquila, poi ho fatto un dottorato in Germania, l'ho voluto io, sia chiaro. Poi ho cominciato a pensare di rientrare, ma intanto sono stata in Microsoft, a Google, a Cambridge, in Canada, in Olanda. Sono diventata docente ordinario in Olanda a 33 anni. Nel frattempo ho fatto diversi concorsi per entrare in Italia e, guarda un po', arrivavo quasi sempre seconda. Cioè non li vinceva? Guardi, ne ho persi tanti di concorsi, ma fa parte del gioco, solo che in Italia ricevevo i complimenti della commissione. Cioè in molti casi era chiaro ed era messo a verbale che ero più qualificata di chi aveva vinto. E come facevano allora a farla perdere? Con pretesti vari. Una volta scrissero nel verbale che l'attività svolta all'estero non era quantificabile. Diventava un demerito, capisce? Quando invece è il contrario. Quindi, quando ho sentito la frase orgogliosa del ministro sui ricercatori italiani, mi è salita la rabbia. Ma come? L'attività svolta all'estero non valeva allora per farmi vincere e vale adesso per appropriarsi dei miei meriti? E allora, all'epoca invece reagivo con frustrazione e rabbia, giurai che non sarei mai più tornata in Italia. Ora invece tornerei, cioè qua mi trovo bene, ma preferirei stare in Italia per star vicina ai genitori. Insomma, intervistata da Silvia Bencivelli, la ricercatrice che ha creato un caso rispondendo per le rime al ministro Giannini, dicendo: non si appropri dei meriti dei ricercatori italiani all'estero. Anche La Stampa fa una pagina dedicata a questa: la ricerca non paga, fuggire dall'Italia è l'unica possibilità, parlano i cervelli scappati che si raccontano e dicono: la ricercatrice che accusa la Giannini ha fatto benissimo, è sacrosanto. Quindi c'è questa polemica che riguarda l'annoso dibattito della ricerca italiana sottopagata e sottofinanziata. Nell'ambito invece, un giorno bisognerebbe pensare di chiudere i social, ma proprio tutti, perché per i danni che qualcuno combina sui social, no, ovviamente è una provocazione la mia, non sono un talebano, non sono uno del Medioevo, sui social ci sto bene, rispondo anche a chi mi insulta, mi piace, ma devi prenderlo con questo spirito. Uno ti dice così e tu rispondi a brigante, brigante e mezzo, basta, e finisce lì. Però che ha combinato un assessore, tale Mattia Zucchini, assessore di SEL nel comune in provincia di Bologna, San Giorgio al Piano, ha scritto su un social la seguente frase: l'unica chiesa illuminata è la chiesa che brucia. Poi, intervistato dal Resto del Carlino, ha detto: i social network sono come una piazza nel centro del mio paese. e anche lì ritengo sia doveroso portare avanti la battaglia per la laicità delle istituzioni. Sì, va bene, un conto è la laicità delle istituzioni, ma un altro conto è l'unica chiesa illuminata è quella che brucia. E infatti, attenzione, perché la procura, racconta il giornale, la procura sta verificando se sussiste il reato di pubblica offesa a una confessione religiosa da parte dell'assessore, attenzione, assessore alla cultura del comune, assessore alla cultura. Va bene, visto che devo sforzarmi di cercare delle buone notizie, l'ho trovata una anche oggi, ve la sottopongo. La più bella notizia che ho trovato è a pagina 23 del Corriere della Sera, un piccolo trafiletto in taglio basso, si dice, cioè che non vuol dire niente, voi non capite cosa vuol dire in fondo alla pagina. E allora Giusy Fasano racconta la storia di Massimo D'Alonzo, l'uomo che ha scritto un libro con gli occhi per sfidare la SLA. L'uomo che scrive con gli occhi si chiama Massimo, un tempo faceva il maestro, maneggiava gessetti e infanzia. Ora la sola cosa che sa fare è guardare una tastiera elettronica e planare con lo sguardo da una lettera all'altra. È malato di sclerosi laterale amiotrofica, la SLA appunto. Insegna ogni giorno a se stesso la lezione più difficile, resistere. Per farlo ha deciso di scrivere un libro dalla prima all'ultima pagina con il solo aiuto del puntatore oculare. Lettera dopo lettera, parola dopo parola, una fatica inenarrabile. E alla fine il premio dei premi, una casa editrice che lo pubblica e la partecipazione al Modena Book Festival. Ha scritto questo libro Maria Extravergine, edito da Campi di Carta, e ha spiegato che da alcuni mesi ho l'occhio che scrive, sono praticamente immobile e muto perché respiro attraverso un ventilatore artificiale, ho scritto una storia di storie preistoriche molto divertente, secondo me anche molto adatta a persone allettate e ad ammalati, e credo che i miei racconti abbiano un grande potere evocativo e onirico. Beh, davvero... sul Corriere della Sera c'è questa storia, ripeto il libro, magari lo cercate se vi interessa, Maria Extravergine, scritto da Massimo D'Alonzo. E ora devo saltare invece all'articolo che vi fa più sorridere della giornata, l'articolo che vi fa tenere le mani sul volante se siete alla guida, mi raccomando. Sempre storie di assenteisti, raccontate questa volta da Fabio Albanese sulla Stampa, pagina 18, riguardano il comune di Modica, in provincia di Ragusa, assenteisti cronici, ma contro di loro il processo è inutile. Sono stati trovati da Guardia di Finanza e Polizia ben 106 su 126 dipendenti del comune assenteisti, è vero, dice il sindaco attuale. Il fatto fu clamoroso qualche anno fa, alcuni erano assenteisti per qualche minuto, ma altri proprio non si presentavano a lavorare, insomma un grande classico. Ma cosa succede? Chiude poi un tribunale, il tribunale di Modica, passa tutto a Ragusa, bisogna ricominciare tutta l'inchiesta, succede che alla fine inizia il processo praticamente quando siamo vicini alla prescrizione, e per cui... non succederà nulla, anzi il sindaco attuale dice molti sono, la maggior parte sono rimasti lì, lavorano lì, anzi tutti lavorano lì, molti sono stati anche promossi, hanno avuto normali avanzamenti di carriera per l'anzianità, tanto basta compiere gli anni per i dipendenti pubblici, e poi inizia il processo ma finirà tutto in prescrizione. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. State ascoltando un programma offerto da Centrosoftware.com, i migliori ERP per gestire le imprese italiane. Alessandro Milan, il barlafus dell'informazione. Scarliga Merlus. E Ale, dai, continuate a mandarci queste straordinarie sigle al 349-238-6666, è un numero da utilizzare in questo caso come WhatsApp e come audio, come ha fatto questo nostro ascoltatore, così ci mandate ci mandate questo audio. Allora, io sapete che gioco con la questione delle settimane decisive, mi dicono ma smettila, sei noioso, hai rotto, ma infatti voi non sapete come mi sento noioso, vorrei non contarle più, ecco. Banalmente, tra l'altro non sarà la settimana decisiva neanche per le unioni civili, che anche queste come dibattito hanno abbondantemente frantumato i cosiddetti, per quel che mi riguarda, ma non è decisiva perché si vota da domani, ma poi si va avanti forse fino al 23, al 24, se va bene, cioè se va bene, insomma, se almeno una qualche legge uscirà. Sta di fatto che tutta una serie di interviste, ieri Alfano ancora ha rilanciato, intervistato da Lucia Annunziata, l'idea di stralciare la questione della stepchild adoption, straordinaria invenzione almeno dal punto di vista linguistico, perché ci ha regalato dei momenti straordinariamente esilaranti al Senato con le pronunce varie. Comunque, facciamo saltare la stepchild, vabbè, ma è la solita offerta che Alfano ha fatto a Renzi, sulla quale Renzi pare non sentirci. Anzi, gli articoli sul dibattito ne trovate tanti, ma più interessanti, a mio modo di vedere, riguardanti il tema unioni civili, sono due. Il primo sul Giornale: se è vero, Francesco Kramer racconta che Renzi comincia a sentirsi leggermente indispettito da questo andirivieni di dichiarazioni da parte di Angelino Alfano. Tanto che, racconta il Giornale, Renzi licenzia Alfano. Gli avrebbe detto così: sai che ti dico, forse è meglio che te ne torni ad Arcore. Questo giura il Giornale. È chiaro che il Giornale, insomma, è abbastanza vicino alle posizioni di Arcore, non ha mai amato particolarmente, per usare un eufemismo, Angelino Alfano. Quindi bisogna verificare, sono tutte frasi ovviamente non ufficiali, ma Renzi sarebbe arrabbiato dalla posizione di Alfano, un po' ondivaga. Mentre l'altro articolo interessante lo scrive Massimo Vanni su Repubblica, pagina 13, è una vicenda di cronaca. Si parla tanto di utero in affitto, questa anche dicitura spregevole, molto molto un po' volgare, diciamo, la maternità surrogata, cioè l'idea di andare nei paesi in cui questa è consentita come pratica e fare un vero e proprio contratto con una donna che porta avanti la gestazione per 9 mesi di un bambino, e poi quando questo bambino o bambina nasce, questo bambino per contratto viene dato alla coppia che se lo porta via. Questo è il dato di fatto. Ebbene, questo è vietato in Italia, la legge Cirinà non ne parla, ma abbiamo spiegato varie volte che secondo coloro che sono contro la legge, se si dà la possibilità a due omosessuali di essere considerati un'unione civile, ecco che potranno andare all'estero a fare questa pratica e poi portare il loro bambino legittimato in Italia. Sta di fatto che tutto ciò, secondo Massimo Vanni, in pratica succede già, per via di sentenze della magistratura. Eccolo qui: bimbi da utero in affitto, il giudice li lascia alla madre sociale. Questa è la definizione. L'utero in affitto vietato dalla legge in Italia, ma la signora rientrata dall'Ucraina con due neonati gemelli è considerata madre sociale. E visto che il marito della signora è a tutti gli effetti il padre biologico, i gemelli restano al sicuro nella casa familiare. È questa l'innovativa sentenza emessa dal Tribunale dei Minori di Firenze, che nel vuoto legislativo italiano ha scelto di seguire le evoluzioni giurisprudenziali europee, che riconoscono una genitorialità di tipo sociale accanto a quella biologica e genetica. È la storia di una coppia che vive in provincia di Lucca, lui ingegnere, lei biologa, hanno scelto di lasciare il lavoro per dedicarsi ai bambini, vanno a Kiev in Ucraina, tornano con due gemelli avuti da madre surrogata, dichiarano che sono i loro figli e i giudici dicono i gemelli sono figli biologici del padre e della madre sociale che è lei, e quindi glieli lasciano. Quindi vedete che questa pratica, di fatto per sentenze della magistratura, c'è già, piaccia o no, non è un giudizio quello che sto dando io. A me non piace, per esempio, ma è un dato di fatto. Ma vedremo come va questo dibattito sull'unione civile. Intanto veniamo alla questione dei conti, che forse è una questione che interessa più di tutti perché riguarda tutti noi. Allora, l'Italia cresce poco. e lo sappiamo, l'Istat ha detto il PIL nel 2015 è fermo allo 0,7%. Tradotto, si va peggio di quanto il governo aveva stimato nel DEF, il documento di economia e finanza. Questo è l'inizio dell'articolo del giorno che introduce a questo tema. Che succede? Ci sarà una manovra correttiva? Questo è quello che si chiede. Perché ieri il sottosegretario Zanetti, intervistato da Maria Latella su Sky, dice è prematuro, però non ha escluso dei piccoli interventi. Ora, quando si dice piccoli interventi da parte di un sottosegretario all'economia, il giornale va giù dritto: ci saranno più tasse, arriva la stangata. In realtà il Messaggero, per esempio, con Michele Di Branco e Umberto Mancini a pagina 2, rilancia l'idea dei tagli, la spending review, anche i tagli alla spesa. Mamma mia, bisogna iniziare a fare una campagna veramente a parlare italiano. E la spending review, e la voluntary disclosure, la stepchild adoption, ma che è? Vabbè, i tagli alla spesa pubblica. Sanità e pubblica amministrazione, ecco il piano dei tagli per correggere i conti pubblici. Per il Messaggero, nel mirino sono i ticket sanitari, la riduzione dei centri di spesa, questa l'abbiamo sentita 5.000 volte, le municipalizzate, anche questa l'abbiamo sentita 6.000 volte, e la rinegoziazione delle forniture, questa 8.000 volte. Insomma, comunque, secondo il Messaggero, per recuperare i soldi si punta a lì. Si punta forse anche alle pensioni, le pensioni di reversibilità. L'allarme è stato lanciato da più parti. Salvini è sicuro, Palazzo Chigi vuol tagliare le pensioni di reversibilità, un governo che fa cassa sui morti mi fa schifo, questo dice Matteo Salvini. Ma anche il Fatto Quotidiano con Carlo Di Foggia, pagina 2, dice nel piano povertà, per finanziare il piano povertà, vogliono tagliare gli assegni delle pensioni di reversibilità, quindi i soldi ai coniugi e figli di lavoratori defunti. Il governo, scrive il Fatto, è pronto a farsi dare una delega in bianco per razionalizzare le prestazioni previdenziali. Attenzione, perché quando si parla di razionalizzare, sia chiaro cosa vuol dire: vi tolgono dei soldi. Tutto per finanziare il piano di lotta alla povertà approvato il 28 gennaio. Una partita di giro, dice il Fatto Quotidiano, e si ricorda di quando Matteo Renzi disse, prima di diventare premier, denunciò questa cosa: mia nonna prende 3.000 euro di reversibilità. Lo denunciò, come dire, non è una cosa giusta, continua a percepire 3.000 euro al mese nonostante i figli siano piuttosto grandi, così la nonna di Renzi. E allora ecco che secondo alcuni c'è questo nel mirino. Tra l'altro, questo ovviamente si vedrà nei prossimi giorni. Tra l'altro, a proposito di pensioni, oggi Libero è un'apertura molto molto forte. Inchiesta investe i vertici dell'INPS. Giacomo Amadori racconta che sul tavolo del presidente dell'INPS Boeri c'è un dossier che lo angustia non poco. È una relazione riservata che ha chiesto all'ex direttore centrale delle entrate previdenziali Antonello Crudo, e un report riguarda un presunto buco da 40 milioni, scritti col punto esclamativo, creato dall'Enel con l'esodo incentivato di circa 15.000 lavoratori avvenuto tra il 2006 e il 2015. E il principale motivo d'ansia per Boeri è il fatto che dal 2006 al 2014, a capo delle risorse umane Enel, ci fosse Massimo Cioffi, che è il suo attuale braccio destro, come direttore generale dell'INPS. E racconta Libero che c'è, con Giacomo Amadori, che c'è una procura di Nocera, la procura di Nocera, che ha aperto anche un fascicolo. E insomma, e quindi pensioni. Caro Mauro Meazza, tu però di altri tagli ti occupi. Sai che Mauro... Buongiorno intanto, Mauro. Buongiorno, sai, ma che... potremmo evitare di disturbare con le cose. Ti dico solo una cosa. Sonore. Ti dico solo una cosa. Ieri mia moglie, che distrattamente era lì, mentre mi sentiva sogghignare attorno al 90 tantissimo della partita. Diceva: ma perché ridi? Poi sentiva distrattamente, leggeva un libro e mi fa: ma cosa c'entra BlaBlaCar con una partita di calcio? E ho detto: no, no, è BabaCar. Bene, ho piacere, quindi abbiamo parlato della nonna di Renzi, della moglie di Milan. Adesso parliamo magari anche di qualche cosa che interessa di più ai lettori. So che già hai letto, e me ne compiaccio, della indicazione, delle indicazioni che oggi abbiamo sul canone Rai, sul Sole 24 Ore. Ricordati che devi pagare. Che devo morire. No, parliamo anche del funerale di Milan. Ma tranquillamente. Ma perché? Sì. Ma no, assolutamente. Sì. Oh, ti voglio dire che oggi con il Sole 24 Ore il numero dell'esperto risponde, sai, l'allegato di, che tutti i lunedì dà risposte appunto ai quesiti dei lettori, è completamente dedicato a Telefisco, risposte ai quesiti giunti durante Telefisco, che sono parecchi, ne abbiamo selezionati, diciamo, i più ricorrenti, i temi più ricorrenti, tutti non, nell'allegato di oggi l'esperto risponde. Dovresti avviare un nuovo countdown, no, non so, è un count-up in realtà il tuo, perché le 100, cosa siamo, 146 per le province? Sì, esatto. Allora io comincerei a scaldare il contatore per il taglio dei posti nei consigli di amministrazione delle società partecipate, perché come apprendi oggi dal Sole 24 Ore bisogna da 26.000 toglierne 15.000. Quando? Ecco, questo è il tema per il tuo contatore. Non so da quando vorrai decidere di farlo partire, leggi il Sole 24 Ore di oggi, poi vediamo da quando farlo partire. Oh, ti voglio dire che domani apre anche l'anno giudiziario per la giustizia amministrativa, ne parliamo sempre sul Sole 24 Ore, e ricordati sempre che devi pagare, tra l'altro, ma ricordati che ci sono comunque 241.000 cause ancora pendenti, quindi non pochine. Molte altre cose ti vorrei dire. Causa che pende? Causa che rende, diceva quella. No, per carità, non è vero. Poi gli avvocati ci scrivono. No. Senti, guarda, io a costo di fare dell'autolesionismo, ti vorrei parlare della Juventus. Oh, che bello, la capolista. Ma perché la capolista, giustamente. Perché la Juventus oggi è citata nelle nostre pagine di Lavoro e Carriere. Tu sai che ogni lunedì noi abbiamo Lavoro e Carriere, presentiamo le occasioni, i posti, i tipi di contratti che si rendono disponibili, che sono reperibili attualmente nei vari settori. Bene, tra i tanti posti che oggi segnaliamo, ci sono anche, c'è una ricerca di personale da parte della Juventus, non calciatori, no, neanche arbitri. Scherzavo, era una battutona, dai, era questo, una veramente pessima battuta, pessima. È tutto per andare a parlare dell'arbitro, hai visto? Ho visto questo. E infatti questo c'era arbitro. Un rigore per la Fiorentina, Io parlavo dell'arbitro del Leicester che ha espulso Atkinson, che ha espulso Simpson, è finita 2-1 per l'Arsenal. Ecco. Sì, per doppia ammonizione, che ma comunque ho sbagliato pronostica, avevo detto 1-0 per la Fiorentina, sono veramente ormai, perdo colpi. Almeno la finiamo. Comunque senti, vai a vedere, perché magari ci sono anche degli altri posti di lavoro. Dicevo, parliamo della Juventus naturalmente, ma perché c'è una iniziativa della Juventus appunto di digital marketing e comunque di rapporto con i tifosi, ma molti altri posti e occasioni vengono segnalati oggi sul Sole 24 Ore. Tutto ciò premesso, ti dico anche che parliamo di una causa di taxi, ma non ti spiego niente, ti rimando alle pagine di norme e tributi. Perché ti parlo di taxi adesso? Chissà, perché? Perché ti voglio dire la mia parola conclusiva, che è traffico! Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta Alessandro Milan, dell'informazione, insomma. Ottimo, questa è una delle migliori. Allora, cari ascoltatori, c'è molta attualità internazionale oggi sui giornali e me ne compiaccio. Ci sono tanti articoli che vi voglio segnalare. Il primo riguarda gli sviluppi sulla morte, sull'uccisione di Giulio Regeni. Perché non perché si sappia qualcosa di più, ma ormai è abbastanza chiaro che, anche secondo ammissioni o mezze ammissioni, bisognerebbe dire, dall'Egitto, evidentemente Giulio Regeni è stato sequestrato, rapito e poi ucciso da qualcuno che pensava che fosse una spia, pensava che stesse facendo qualcosa contro il regime egiziano. Giulio, tradito dai suoi report sui gruppi di opposizione intercettati dagli apparati. Carlo Bonini e Giuliano Foschini raccontano a pagina 3 di Repubblica che certo c'è l'estenuante nulla prodotto in 14 giorni dall'inchiesta egiziana sull'omicidio Regeni. Non un'evidenza, non una traccia di una qualche solidità, però c'è una costante che tradisce il problema. L'indagine egiziana dal primo momento continua a girare al largo dai luoghi, dalle circostanze, dai testimoni che potrebbero aiutare a rispondere alla domanda chiave di questa vicenda e dunque dare un nome agli assassini, quantomeno individuare in quale degli apparati di sicurezza dello Stato, se civile, militare o paramilitare o la polizia, si nasconda la mano dei carnefici. La domanda è perché Giulio Regeni era diventato un obiettivo del Mukhabarat, cioè dei servizi segreti. Davvero si può credere che a farlo ritenere la spia, che non era, sia stata la partecipazione a un'assemblea sindacale l'11 dicembre al Cairo, durante la quale venne fotografato, o addirittura, e con tutto rispetto, un articolo scritto per il quotidiano Il Manifesto? È difficile crederlo. E allora, scrive Repubblica, ecco che la sua ricerca era diventata sempre più partecipata, cioè embedded, prevedeva dunque una partecipazione diretta alla vita e alle dinamiche interne delle organizzazioni sindacali che studiava. Questo, racconta Repubblica, probabilmente gli ha fatto guadagnare in maniera molto terribile il ruolo di persona sospetta da parte di chi ha deciso di ucciderlo. E infatti, ecco anche il Corriere, il report di Giulio sull'opposizione in Egitto, forse trasmessi fuori dall'università, probabilmente lui li trasmetteva ai suoi responsabili e evidentemente le autorità egiziane o le unità egiziane paramilitari hanno intercettato questi report, che non erano graditi a dir poco. E poi ci sono molti articoli che riguardano la vicenda della Siria. Beh, Obama ha chiamato Putin a dire basta colpire i ribelli. Vi segnalo però Giordano Stabile sulla Stampa con la denuncia di Damasco, della Siria, di Bashar al-Assad, che accusa la Turchia: i vostri soldati sono entrati in Siria. Centinaia di uomini schierati nel nord, ancora colpi sui curdi. E poi il reportage di Fabio Scuto, che da Gerusalemme firma, però racconta l'assedio di Aleppo. Ci si prepara la battaglia finale ad Aleppo. Ribelli, esercito, jihadisti, lo scontro finale che può decidere la guerra. Sono due pagine, pagina 6 e 7 di Repubblica sulla Siria. E ancora invece, vi segnalo Lorenzo Cremonesi, sul Corriere della Sera, racconta della famosa diga in Iraq, a Mosul. Perché è importante? Beh, intanto perché gli italiani effettivamente andranno lì a questo punto, no? La diga di Mosul affidata agli italiani è una diga strategica, non solo perché l'acqua è un bene prezioso da quelle parti, non solo da quelle parti, ma ancor più da quelle parti, ma anche perché è un obiettivo potenziale dell'ISIS. Perché pensate, hanno raccontato a Lorenzo Cremonesi, dovesse saltare questa diga, il Tigri inonderà Baghdad. Cioè è proprio l'utilizzo di una struttura di questo genere che potrebbe essere utilizzata per creare decine e decine di morti. Se dovesse crollare, un'onda di 55 metri sconvolgerebbe il bacino del Tigri. Mosul sarebbe investita meno di 4 ore dopo, poi sarebbero inondate le città e i centri urbani verso sud, Baghdad sarebbe raggiunta 2 giorni dopo, 500.000 di persone potrebbero perdere la vita, questo secondo un rapporto americano reso noto lo scorso 30 gennaio, 500.000 persone potrebbero perdere la vita se saltasse la diga di Mosul. Ed ecco dunque che andranno gli italiani, anche i soldati italiani. E Lorenzo Cremonese, a pagina 2-3 del Corriere della Sera, racconta in maniera molto molto chiara l'importanza strategica di questa struttura. Vi segnalo, sempre per la cronaca, non è un film, ma a Rebibbia, dare Bibbia, tale Catalin Coibanu, 32 anni, e Flomin Diaconescu, 28, rumeni entrambi, uno condannato per sequestro e omicidio, hanno segato le sbarre della cella di Re Bibbia e si sono calati con le lenzuola annodate. Ora, voi pensate che possa essere una scena dei fumetti, una scena da cartoni animati? E invece è capitato, ed è vero. Scappati poi a piedi, sono ovviamente due pericolosi criminali, fanno sapere le autorità, e sono scappati così, segando le sbarre e fuggendo, calandosi con le lenzuola. A proposito di cronaca nera, vi segnalo a pagina 19 del Corriere della Sera una pagina sulla rete di Alex. È Alex Butcher, colui che insieme a Martina Levato è accusato di avere gettato l'acido in faccia ad alcuni ragazzi. E sono Elisabetta Andreis e Gianni Santucci che raccontano la storia di Alexander Butcher e del suo rapporto malato, evidentemente anche con le donne, attraverso le chat intercettate con due persone, uno con Martina Levato, coimputata e sua ex fidanzata, e uno con un'altra amante di Butcher, che però, capita la malaparata, capito che tipo era, si è fatta da parte. Si parla di scarnificazioni, di tatuaggi sulla pelle, di un amore chiaramente deviato e malato, nella rete di Alex sul Corriere della Sera. Va bene, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Ah no, c'è la Gazzetta. Interflop, Viola Wow e Onda Milan. Vabbè, insomma, una buona Gazzetta, ma eccola qui, la pagina sui Rollins. Basta, lo dico, perché anche i miei figli sono drogati di Rollins. Il fenomeno Rollins, una pagina sul Corriere della Sera, vi prego, basta! Ma chi se ne frega!